Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Tutti sono impegnati nel mare di Lampedusa per cercare superstiti di una strage che non ha precedenti. Ogni moto vedetta ha più di 10 cadaveri a bordo, quindi fatevi il conto, ed è una tragedia immane. Ci sono anche bambini e donne. La scena per i pescatori che per primi hanno soccorso i naufraghi era straziante. Era una roba proprio, e questo era proprio, sembrava un mare pieno di, che posso dire, di funghi, un prato di funghi. Era una cosa impressionante. I corpi sono stati allineati nell'hangar dell'aeroporto in attesa che venga decisa la loro destinazione. Il loro numero è destinato ad aumentare, dato che i dispersi. Facciamo subito una bella cosa, così non perdiamo tempo. È colpa mia, sono stato io. La colpa dei morti al largo dell'isola dei conigli è la mia. No, lo dico perché così non perdo questi 20 minuti a definire se sia colpa dei buonisti, come dice Magdi Cristiano Allam, che mette 5 volte basta, basta, basta, basta, basta, o come dice Camillo Langone, dei non indifferenti, lui che dice che non guarda nemmeno in faccia quelli che danno le rose in vineria, ma anch'io, figuriamoci, anzi, li mando via a malo modo perché mi scocciano, quindi è colpa mia perché sono cattivo. È colpa, non è colpa del ministro congolese, non è colpa delle nostre leggi, non è colpa dei politici, non è colpa del presidente. Presidente, è colpa mia, così tagliamo la testa al toro. E vi ricordo un'usanza nelle mie campagne, quando moriva qualcuno, portando i bambini a vedere il morto, anzi si faceva toccare con la manina il morto, era molto impressionante, però ci aiutava a capire che vedere una persona morta significa capire meglio e comprendere meglio i sensi della propria vita. E quindi voglio riflettere su tre fotografie tratte dai tre principali quotidiani italiani. Corriere della Sera si vedono quelli che in questo momento sono al centro di tutte le recriminazioni e gli scarichi di responsabilità. Sono gli invasori, sono i clandestini, sono quelli contro la legge, sono uomini e donne nudi, con la pelle nera, quindi diversi da noi. Sono avvolti in della carta stagnola, come se fossero uova di Pasqua o cioccolatini. La tecnologia aerospaziale ha portato al fatto paradossale che i teli termici che si danno alle persone scampate da disastri e pericoli siano uguali alla carta delle uova di Pasqua. Seconda foto la prendo da Repubblica. Sono le stesse persone, quelle che stavano assieme su quel barcone al largo dell'isola dei conigli, sembra quasi tratta da una favola, avvolte in dei sacchi di plastica verde o nera. Sono le bare provvisorie, quelle dove vengono messe i morti nei disastri, quelle dove tornavano i morti dalle guerre che nessuno doveva vedere, di nascosto, senza che si vedessero. Poi li mettevano nelle bare ufficiali, li avvolgevano nelle bandiere e li facevano vedere in televisione. Terza foto, sulla stampa. Questa è la foto su cui voglio che voi riflettiate. Sono le foto prese dalle zainetti delle persone morte o scampate. Immaginate un mare di persone che chiedono aiuto, dicono salvate i bambini, pensate 200 persone che stanno affogando. Ma queste foto ci rivelano che sono persone come noi, hanno le stesse magliette dei nostri figli, gli stessi jeans, le stesse scarpe, hanno lo stesso taglio dei capelli. Si capisce che vengono da paesi diversi dai nostri solo gli sfondi sono finti, stanno davanti dei sorta di murales, delle pareti a mattoni dove noi abbiamo soltanto quando abbiamo un architetto molto ardito che arreda casa nostra. Si vede che in realtà hanno delle case povere, ma non sono un pauperista, ma rifletto solo sul fatto che sono uguali a noi, sono esattamente come noi, e non solo quei corpi neri, nudi, avvolti nella stagnola come uova di Pasqua, sono ragazzi, ragazze, uomini e donne come noi. Immaginate tutto il vostro vicinato, tutte le vostre amicizie, i vostri amori, reali, leciti o clandestini, i vostri figli, in una grande bagnarola d'acqua che stanno affogando, e voi che li guardate. Qual è la colpa di queste persone? Che vengono da paesi in cui da piccoli non li mandano in piscina a fare i corsi di nuoto, quindi non sanno nuotare, quindi affogano in 2 metri d'acqua, quando i nostri spavaldi, garruli figli, già a 3 anni, sono bravissimi a fare vasche su vasche. Questa era la mia riflessione. 800 24 00 24. Giacomo Sferrazzo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Giacomo Sferrazzo, buongiorno non è un modo di dire. Non è un buongiorno, ho chiamato perché è un cittadino di Lampedusa, non voglio chiamare altri colleghi che mi raccontano la conta dei morti o mi dicono come è accaduto. La dinamica è chiara a tutti: un barcone al largo di Lampedusa la mattina doveva arrivare, a un certo punto si sono trovati soli, hanno acceso una coperta per segnalare la loro presenza, hanno preso fuoco e sono quasi tutti morti. Lei cosa fa a Lampedusa, Sferrazzo? Cosa fa? Ha un'associazione culturale, un museo di reperti noi, di migranti? Noi siamo un'associazione culturale che stiamo stiamo facendo un museo sull'emigrazione perché abbiamo raccolto centinaia di oggetti appartenuti ai migranti che sono passati in questi più di 20 anni sull'isola. Ecco, perché raccoglie gli oggetti? Qualcosa che nessuno ha mai pensato di fare. Io ho citato le foto in prima pagina della stampa. Li assimilano alla nostra vita quotidiana o li rendono ancora più diversi questi oggetti? Ma riportano gli immigrati ad una condizione di umanità e di individualità che in questi anni purtroppo hanno perso, perché si parla di queste persone come di blocchi unici, indifferenziati, invece dentro la parola immigrati ci sono storie, vite, facce, bottiglie, lettere, corani, bibbie, scarpe. Lei cosa ne dice, Sferlazzo, della proposta del ministro Alfano questa mattina che ha detto, ma l'aveva detto già l'Espresso, diamo il Nobel della pace a Lampedusa? Ma io non sono assolutamente d'accordo, perché non, il premio per la pace è stato dato all'Europa e ad Obama, e non vorrei trovarmi insieme a queste due figure, perché sia Obama che l'Europa sono persone fisiche e giuridiche, insomma sono enti, cose che le guerre le fanno, le producono. L'Europa è uno dei primi produttori di armi, così l'America. L'America è uno dei paesi più guerrafondaio che abbiamo, e il suo presidente ha avuto il Nobel. Come ha passato la giornata oggi, Sferlazzo? Cosa ha fatto lei di diverso da ieri? Siamo stati insieme con l'associazione e stiamo cercando, oggi ci sarà una veglia alle 6, una fiaccolata, stiamo cercando di far partecipare gli immigrati che sono dentro il centro a questa fiaccolata, perché dobbiamo essere uniti, il popolo di Lampedusa insieme a tutti i migranti che su quest'isola vivono, stiamo cercando di fare insieme questa fiaccolata, e adesso siamo in procinto di assistere ad una conferenza stampa in cui ci sarà Crocetta per appunto dire questo, che Crocetta, se vuole fare qualcosa, intanto non faccia costruire il MUOS in Sicilia, che è uno strumento di morte. Sì, ma adesso fermiamoci, scuse, non allarghiamola troppo, sennò sembra che anche noi prendiamo l'occasione per... Io volevo un attimo fare esattamente quello che avviene nelle mie campagne quando c'è una veglia funebre. I morti dove stanno in questo momento? I morti stanno nell'hangar dell'aeroporto. Sono ancora chiusi nei sacchi? Sono ancora chiusi nei sacchi, sì. Quindi non c'è nessun tipo di elaborazione o di minimo di attenzione per questi trapassati? Ancora sono cadaveri chiusi nei sacchi? No, l'attenzione c'è, purtroppo bisogna... l'isola ha diversi problemi, tra cui i trasporti, quindi per trasportare queste salme sulla terraferma ci vuole... intanto sono arrivate 100 e passa bare, quindi adesso si devono mettere nelle bare, dopodiché portarle in nave o in qualche aereo militare queste bare a terraferma. Perché stanno emergendo altri, da quello che lei vede, visto l'isola non è molto grande. Sì, ora in questi giorni diciamo che affioreranno i cadaveri. Ecco, lei da isolano, se ne mancano all'appello altri 100, questi 100 prima o poi torneranno su, il mare li restituisce? Certo, certo. E quanto ci vorrà? In qualche maniera. Questo non posso dare delle, ma comunque settimane, mesi, ecco. Sentiamo Giordano, un ascoltatore. Giordano, buongiorno. Sì, buongiorno. 800240024, chiamate, sono in diretta, accolgo volentieri le vostre impressioni, senza dare colpe. In questo momento non è il momento delle colpe, è il momento della veglia funebre, quindi vorrei parlare con voi di questo. Scusi Giordano, eccomi. Sì, niente, allora intanto voglio ringraziarla perché anch'io condivido la sua stessa idea e mi sento partecipe anch'io come lei di dire la colpa è nostra, perché io penso che... Mi sente? La sento attentamente. Quindi voglio dire, io penso che il problema venga preso all'origine, evitiamo di far fare le guerre. Va bene, questo è il suo punto di vista. Ben, buongiorno. Pronto? Sì. Io sono Ben, ha chiamato me? Sì, lei Ben. Ah, buongiorno signor Nicoletti. Senta, sarò telegrafico. Una premessa. Da dove chiama Ben? Io chiamo da Roma. Io ho 71 anni, sono tunisino di nascita, francese di cultura e italiano di adozione. E a proposito di questa sciagura... avevo sentito tutti tanto di più, accusato tutti, eccetera, vergogna, eccetera. Ma io mi sono preso io la colpa, quindi non accuso nessuno. La mia domanda è questa. Allora, a parte le autorità italiane, eccetera, le autorità i governi, le ambasciate, i consolati dei paesi di provenienza si sono mossi, che hanno fatto, hanno portato a fare, che stanno facendo in questo momento? Questo volevo dire. Lei cosa pensa, Ben, a vedere i morti e alla riflessione che le ho proposto io di queste tre fasi? Morti avvolti nella carta come fossero uova di Pasqua, cioè vivi avvolti nella carta come uova di Pasqua, morti nei sacchi e persone vestite esattamente come vestono le persone in tutto il mondo civilizzato. Però non dobbiamo gettare l'anatema soltanto sulle nostre autorità. Che stanno facendo in questo momento le ambasciate? Questo volevo sapere. Come si dice a Roma, fama non capisse. Evidentemente ho proposto una riflessione che va oltre la tensione che ha il pubblico della radio per capire di chi siano le responsabilità, quale sia il movente politico e quale sia la soluzione politica. Avevo tentato, ma in maniera disperata e probabilmente non efficace, di riflettere su un fatto ben diverso. Sul fatto ci sono allineati 100 morti che sono chiusi dentro dei sacchi, che in quei sacchi, pensate un attimo, se ci fossero vostri parenti, vostri amici, vostre persone, persone che conoscete, frequentate ogni giorno, morti riconoscibili, sono morti nascosti, morti irriconoscibili, morti prese, come ha detto giustamente Sferlazzo, come se appartenessero a una sorta di magma disumano che non ci appartiene, che non ci compete. Melog. Cronache meridiane. Arrivano dall'Eritrea, che nella geografia dei paesi in fuga occupa un posto di rilievo. È uno dei paesi più chiusi del mondo. Vittima di una dittatura feroce, la situazione dei diritti umani in Eritrea è drammatica, sempre più coinvolto nella guerra civile somala. Ma scappano anche dalla Libia. Sono per lo più maliani, nigeriani, gambiani. Vivevano lì, erano loro a fare i lavori più umili. Ma nella Libia del dopo Gheddafi per loro non c'è più spazio. Inseguiti, perseguitati, uccisi come presunti collaboratori del vecchio regime o per il colore della loro pelle. E allora scappano e pagano per salire su un barco. 800024, non faccio nulla di particolarmente difficile da capire, semplicemente avevo proposto agli ascoltatori di riflettere sull'iconografia di questa strage, per un attimo astraendosi da fare pensieri, dietrologie, analisi politiche, lasciatele fare alle persone che di mestiere fanno questo, hanno strumenti per fare questo, molto facile dire colpa nostra, colpa loro, è colpa di chi ha dato l'illusione. Io vorrei farvi riflettere sul fatto, ci sono 100 morti stesi, 100 morti che oggi non sono altro che il contenitore di un sacco di plastica, ci stanno molte persone che stanno lì, nude, interizzite, come unico problema da gestire dei cittadini di Lampedusa, che stanno lì ormai abituati a essere questa sorta di crocevia fra due universi totalmente antitetici. Ascoltavo la radio questa mattina, la mia radio, i miei programmi, sentivo che il nostro problema era mettere giù la pancia, avere il tempo di fare gli esercizi necessari per snellire il proprio corpo. Qualcuno dice: io vado a nuotare per stare meglio. Ecco, immaginate di vivere in un paese in cui non si sa nuotare. Perché? Perché è un paese che sta nell'entroterra, o anche se c'è il mare vicino, nessuno pensa andare a fare nuotate salutari in quel mare, tutto il più ci si va a pescare e si è ben sicuri che anche in un metro e mezzo d'acqua si potrebbe affogare, come accade appunto a queste persone. Nessuno riflette sul fatto che muoiono semplicemente perché non sanno nuotare, perché il nostro livello di civilizzazione è talmente avanzato, e non dobbiamo lamentarci, che tutti noi comunque, anche se abitano come me in una cittadina dell'entroterra dove non è toccata dal mare, Perugia, da piccolo mi mandavano a calci nel sedere a fare i corsi di nuoto e bene o male so galleggiare. Io sarei sopravvissuto in quel barcone, loro no. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Io ho sentito la trasmissione e allora io penso che sia inutile dare medaglie, medagliette, Nobel e piangere su questi sacchi, che poi sono gli stessi sacchi che riportano in patria. Ma guardi, non guardi, se c'è una persona cinica sono io, non piango. Ho detto riflettiamo, no, è una riflessione. Per quelli che hanno chiamato, o per l'atteggiamento dei politici in generale. Però secondo me far vedere a casa loro quello che succede quando loro arrivano qui sarebbe, non dico un deterrente, però secondo me sarebbe utile, sarebbe formativo tra virgolette, per spiegare a questi signori: guardate che non è che andate a star benissimo, guardate che rischiate di morire su queste ma barche. Io penso, Paolo, scusi, visto che ormai la televisione è globalmente diffusa, loro avranno visto la settimana precedente comunque c'erano dei morti allineati su una spiaggia italiana, che la gente muore sulle nostre spiagge, lo sanno. Evidentemente è talmente alto il livello di disperazione che si rischia comunque di rimanere stesi sulla spiaggia. Ma non lo so, mi viene da pensare. Sì, può darsi che sia disperazione, può darsi che sia, non possono essere tutti rifugiati da paesi in guerra o da paesi dove ci sono dei problemi di ordine pubblico più gravi dei nostri. Ma noi poi tutta questa gente qui, cioè dove la mettiamo? Dove non riesco a capire che se l'Italia è destinata a diventare, diceva una volta, la Calabria d'Europa. Cioè, dobbiamo riempirci. Sì, ma è possibile, Paolo? Guardi, se c'è una persona che non è terzomondista, buonista, sono proprio io, figuriamoci, ho un occhio talmente. Molte volte mi prendo le sgridate dei miei amici proprio perché dico ci sono dei problemi concreti, dei problemi accessori. Ma in questo momento si può un attimo sollevare da tutto quello che potrebbe accadere o sarebbe potuto accadere e fermarsi nell'analisi che sono tanti, 200 morti stesi, sono tanti, morti perché non sanno nuotare, sono tanti, secondo me. Io questa riflessione mi piacerebbe fare. Carla, vediamo se riusciamo, con una donna forse ci riusciamo meglio. Carla? Ah sì, buongiorno. Sì. Volevo gentilmente chiederle, visto che lei sta parlando così concretamente della situazione di questi rifugiati, insomma, poiché appunto accenna al materiale biologico, punto di domanda, insomma, perché sì, c'è un punto di domanda sul materiale biologico. Ma l'ha scossa questo mio termine? Com'è? L'ha scossa questo mio termine? Sì, molto. Volevo gentilmente, tra l'altro, chiederle se poteva ripetere il nome dei tre quotidiani. Vabbè, sono i primi tre quotidiani d'Italia. Corriere della Sera è la foto degli uomini nudi, neri, sì, avvolti sì, nella stagnola. Repubblica è la foto, ma tutti gli altri giornali hanno presa. È la foto con i corpi dentro i sacchi di plastica che certo, negli ultimi decenni significano morto in situazione drammatica, incidente o guerra. Ho capito. Terza è la Stampa. La Stampa, devo dire, fra tutti fa l'operazione. Molto. Fa l'operazione più singola. No, non se ne vada, perché dopo che faccio io fino alla fine se non parlo con lei? Dico, la Stampa mette incorniciata, addirittura li mette delle piccole cornicine di grafica per far capire queste foto di famiglia sono le foto di famiglia che noi abbiamo sulla nostra scrivania tutti i giorni. Ecco. È facile fraintendermi, secondo lei, Carla, pensare che faccio la solita operazione buonista e lacrimosa. Volevo riflettere, lei pensi se un attimo sulla pagina della Stampa, invece che la foto di questi tre ragazzi, certo, probabilmente eritrei, con una maglietta gialla, arancione, azzurra, ci fossero tre ragazzi della sua famiglia, non le viene a pensare che alla fine è una riflessione che coinvolge tutti noi, prima di dire di chi sia colpa e di non sia colpa, dove vanno, che fanno, come lavoreranno? Non lo so, mi sembrava una umana veglia funebre come sono abituato a fare io da quando sono bambino, come almeno mi hanno tentato di far fare, poi non sono nemmeno andato al funerale di mio padre, quindi sono un pessimo esecutore delle mie tradizioni. Infatti la ringrazio molto proprio per queste considerazioni che toccano, che sta facendo, ecco, perché propone proprio anche visivamente, insomma, nei suoi discorsi. Lei si andrà a comprare tre giornali e vedrà di fare la stessa riflessione, ma forse le trova anche in rete. Mario, buongiorno. Buongiorno a lei, io telefono da Roma. Guardi, io stimo molto come giornalista, perché è una persona che va sempre alla ricerca dei problemi che generano altri problemi, no? delle cause, cioè, che generano i problemi. Io volevo riflettere un attimino sul perché queste persone sono costrette a venire qui da noi. Riflettendoci stavo pensando, probabilmente, sicuramente, anzi, in alcuni paesi c'è questo tipo di violenza determinata da fattori politici che in queste zone risiedono, ma tanti però vengono su perché presi dalla disperazione, colti dalla disperazione, dal non poter più vivere di niente. Però scusi Mario, quando un uomo è un residuo biologico e chiuso dentro un sacco con la cernera lampo, cambia molto se in quel sacco c'è finito perché voleva venire qui a fare la bella vita, o se era spinto da ragioni politiche, o era spinto all'ispirazione, cosa cambia in sostanza? No, forse mi sono spiegato male, cioè la colpa è anche la nostra, cioè la nostra, dico, di queste nazioni che noi riteniamo più evolute rispetto alla nostra. Io mi prendo la mia parte di colpa, senza naturalmente poi fustigarmi e fragilare. Va bene, mi fa piacere. Ma Giuseppe, chiudiamo con Giuseppe. Nicoletti, buongiorno. Sì. Come dicevo alla signorina, sì, che mi ha chiamato, mi piacerebbe molto, ma è doloroso il fatto in sé, ma che questa notizia fosse proiettata nel 60 anni fa, quando non c'erano la televisione, non c'erano le immagini, sì, ed era solo un racconto radiofonico, ed era per me avrebbe avuto un effetto completamente diverso. Ma io lo sto raccontando alla radio, non sto facendo no altro. No, ma lei, quello che lei sta facendo è meritorio, però dico, se non si è passata nessuna immagine televisiva, proviamo a immaginare una cosa del genere. Ma secondo me, guardi, le immagini è giusto che passino e non bisogna essere antitetici rispetto ai propri tempi. C'è un momento in cui più suggestioni abbiamo, più elementi, frammenti abbiamo per comporre qualcosa che assomiglia alla realtà, è meglio. È giusto che passino le immagini. Però infatti i sacchi di plastica è quello che dà fastidio. No, ma io ho fatto un'operazione diversa, Giuseppe. Ho fatto riflettere sulle immagini. Le immagini ne passano tante. Ne passano talmente tante che diventiamo indifferenti alle immagini. Non ci fa più nessun effetto. Non ci fa riflettere sul... Quello è il dolore. Ma il senso della radio, visto che oggi festeggia 14 anni questa radio, è proprio questa. Sì. È fermarsi un attimo, riflettere sull'immagine, fare un'analisi dell'immagine, mettere le immagini in contrapposizione, non siano soltanto un flusso che ci passa avanti e lascia il tempo che trova, o sia semplicemente una sponda per appoggiarci la nostra fettina di punto di vista ideologico. Io ho sempre odiato i punti di vista, ho sempre amato le visioni, e questa mattina vi ho posto non il mio punto di vista, ma la mia visione. A lunedì.